140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Tutti contro tutti, la storia di Agostino a cui rubano la casa. Dirige e interpreta Rolando Ravello, l'abbiamo incontrato con Marco Giallini. Devo dire che in questo momento non sto dormendo proprio sereno, perché l'uscita del film rappresenta poi alla fine il traguardo di un percorso che è durato anni e che mi coinvolge. Lavorare come attore è diverso, perché ti metti sempre dietro qualcun altro. E in questo caso no, in questo caso quello che c'è sullo schermo è la mia pancia, le mie emozioni, la fatica che abbiamo fatto tutti, io, Massimiliano Bruno, Domenico, anche Procacci, per tirare sul progetto, perché ci ha creduto da quando mi ha proposto di farlo. Povero, si è sbattuto tantissimo per riuscire a metterlo in piedi, la Warner, insomma, no? Cioè, uno poi dall'altra parte non ha idea di quanta roba ci sia dietro e tu che sei il regista alla fine arrivi al traguardo e ti senti quello che tira la volata e il più responsabile, no? E io purtroppo, siccome la leggerezza che c'è nel film sto cercando di prenderla come scuola di vita da qualche anno, da un paio d'anni a questa parte la mia vita è cambiata e sto cercando di vivere in questo senso, ma io notoriamente non sono uno leggerissimo. Non riesco, non capisco, non saprei. Perché improvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro, che non la senti la musichetta? Hanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo un regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no. Ecco, tutto qua. Ma perché qua sta urlando lei? Non ho capito. Questa ma casa sua qui. Tra l'altro, le manco ce l'ha più casa sua, no? Io direi che dovremmo essere un filo tutti più ragione. È vero, c'hai ragione. Mi sa che hanno occupato l'interno 7. È un film che sembra straordinariamente attuale nel male, però che ha una radice più lontana del tempo anche. Il soggetto l'abbiamo scritto 7 anni fa. È abbastanza inquietante vedere che in 7 anni la situazione purtroppo è andata peggiorando, quindi il soggetto è diventato via via sempre più attuale. E in questi anni questo soggetto è diventato poi uno spettacolo grazie a Serena Dandini, che ho fatto anche fino a pochi giorni fa. E in una palazzina occupata ho girato un documentario, Via Volonté numero 9, che ha prodotto sempre la Fandango. C'è un problema di cui mi sto occupando da anni, ma perché da anni, cioè diciamo da sempre, è proprio una malattia. Io mi interessa quello che mi accade intorno. È una roba con cui convivo dalla mattina. Io la prima cosa che faccio la mattina appena mi alzo è aprire internet e guardarmi tutte le testate. È una malattia. E mi interessa chi fa fatica, mi interessa chi è in difficoltà. E ha sempre qualcosa in più da raccontare, no? È sempre più interessante di chi ha avuto la vita completamente facile. E quindi è così, è andata così. Non mi ricordo neanche da dove sono partito a risponderti. Ma chiusi, scusa, che vuol dire che non hai in mano l'atto? Agosti, ma non lo capisci l'italiano? Vuol dire quello che ti ho detto, sta casa tecnicamente non è la mia. No? No. Ma chiusi, noi ti paghiamo 500 euro al mese, chi è il proprietario di casa? Ste case sono state occupate 20 anni fa, l'appartamento vostro era di un certo signor Calò. Saluto, Faraone! Domenica è giorno di riposo proprio voi. Ciao, Agosti. Sti cazzo stranieri. Stanno a chiudere tutto da noi e rompono pure i coglioni. Chi è in difficoltà spesso si trova a che fare con la propria natura e spesso la natura dell'uomo è quella di mettersi tutti contro tutti. Hai deciso, nonostante il tono del film sia leggero, di non indugiare mai nel buonismo. Sì, c'è un po' di sana cattiveria nel film, ma che è quella che poi abbiamo anche noi, non è che... E il tutti contro tutti purtroppo è una situazione in cui sì, è vero che umanamente ci finisci anche involontariamente, però è vero che in questo momento è un gioco a cui siamo un po' costretti tutti quanti, no? Cioè, c'è paura, cioè, tu ti svegli la mattina con un senso d'ansia addosso che non capisci da dove deriva e purtroppo poi ti rendi conto, se vai a guardare bene, che deriva dal contesto sociale in cui ti fanno vivere, che non è entusiasmante. Per cui si vive difendendosi, difendendoti attacchi, e chi ne fa le spese è uno come te. Io ti dico subito che in macchina non ci dormo. Ma mi fai finire parlare? Se tu pensi che io, a età mia, mi metto a dormire in macchina, ti attacchi proprio per cornicione per cazzo. Io sono vecchio, voglio dormire in un letto. No, non l'ho mai detto di dormire dentro una macchina, basta, ma che ci senti te? Io però ho pensato a una soluzione alternativa. Io pure. Se mi rimetti un fucile a canne mozza, gli vado a sparare sti infami. Tanto a 85 anni in galera non me ci mettono. Hai finito? Grazie. La mia soluzione è un po' meno estrema e soprattutto è l'unica che ci consente di rimanere tutti insieme. Sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Nel film c'è integrazione e disintegrazione in tutti i sensi allo stesso modo. Sì, ma sia anche razziale, nel senso che il film è pieno di italiani, di extracomunitari che sono in guerra tra di loro, ma non solo italiani extracomunitari, anche extracomunitari con extracomunitari, italiani con italiani, cioè è un po' una cosa che riguarda tutti, no? Ci sono alcuni italiani che si sentono messi sotto scacco dalla presenza degli extracomunitari, alcuni che invece sono assolutamente... per esempio Agostino è il nonno ha un parere sulla vicenda che dichiara nel film, no? Lo dice, questi ci vogliono vedere morti. Agostino non la pensa così, non è di quell'avviso. In qualche modo poi la situazione che vivi è quella di trovarti contro comunque l'uno o l'altro, perché difendi il tuo orticello. Impossibile non avere in mente alcuni film che hanno parlato del problema della casa, il problema della convivenza familiare e tra vicini anche nel passato. Ad esempio io penso al Tetto di De Sica. Tu, al di là del fatto che ti sei occupato in altri modi della vicenda, avevi così presente alcuni film del nostro passato? Allora, pensa che il Tetto, per ignoranza, nonostante abbia fatto pure 3 esami di storia del cinema all'università, non l'avevo visto. E me l'hanno detto a Sceneggiatura Ultimata, quando eravamo sotto riprese, me lo disse Narita, una mia amica, dice, ma tu l'hai visto il Tetto di De Sica? Dico no, perché, ma guarda che lo devi vedere, me lo sono comprato. E quindi no, forse vederlo prima sarebbe stato anche un bene, perché avrebbe magari apportato qualcosa di più al film, non lo so. E non c'è stato un film in particolare, se non che non racconta lo stesso tema, ma lo racconta forse con gli stessi... No, aspetta, avendo al contrario, io cerco di raccontarlo con gli stessi colori, forse è meglio, che C'eravamo tanto amati, ma perché anche per me è una malattia. Cioè, Ettore Scola è una presenza fissa nella mia vita da anni, mi ha formato, è un secondo padre, e quindi io finisco sempre lì. La nostra generazione ha fatto veramente schifo. Beh, guarda Nicola, per esempio. Che ha fatto Nicola? Che ha fatto Nicola? Ha preso a calci la famiglia, la carriera, e a coronamento di tutto è finito a scribacchiare critiche cinematografiche, firmando vice. È lui vice? Ma allora scrivi sul sacco dei giornali. Come guarderai i dati del box office? Con la serenità che ti stai costruendo in questi anni o con... La serenità che mi sono costruito in questi anni se n'è andata a ramengo in questi ultimi giorni, quindi no, non sono sereno per niente, lo ammetto spudoratamente, perché comunque non sono poi dell'avviso che un film uno lo faccia solamente per dare sfogo alla propria creatività o per raccontare una storia in cui crede. Sì, è giusto anche questo, però il film ha bisogno di un'interazione con un pubblico, il film si fa insieme, il film lo fai tu e chi ne usufruisce, la somma la facciamo tutti e due. E quindi la mia speranza sarebbe che se l'andassero a vedere, ecco. Oh, giovane! Ah, non ci sentite, eh? Avevo detto che sto noccioletto mi fa schifo. Scusi, signora, noi avevamo pensato... Ma che pensa? Che se pensavate non facevate i muratori? Come, scusi? Imbecilli, incompetenti e pure disonesti. Vabbè, signora, ma che problema c'è? Io rifacciamo il colore noi. No, il problema c'è perché la giornata ve la devo pagare lo stesso, no? Ma non ce la pagà. Ma che pensi, che abbiamo bisogno dell'elemosina tua? Senti, giovane, non t'azzardare a parlarmi così, perché io guarda che chiamo i carabinieri subito, chiaro? Ma chiama chi te pare. E tu come sei entrato nell'avventura di Tutti contro Tutti? Beh, ci sono entrato molto semplicemente, insomma. Avendo abitato per 30 anni in una situazione simile. Noi casa ce l'avevamo, però ce l'avevamo, una volta si usava negli anni primi 70, così quando io ero un ragazzino, si usava che tutti i parenti, specialmente quelli che venivano, no, da fuori Roma, mio padre era Umbro, città di Castello, un po' più su, Umbro Toscano, e lo zio faceva il bianchino, quell'altro faceva il muratore, quell'altro, e ognuno di loro si dava una mano, la prima, le fondamenta, prima si stava dentro una casetta di 40 metri quadrati in affitto, quel poco che si poteva pagare. Però piano piano, un pezzo di terra, mio padre cominciò a fare le fondamenta, poi la calce, poi le cose, e diciamo la casa era pronta dopo 10 anni. si dormiva in stanze ancora con i tufi, no? Sai, con i tramezzi, con i forati, i mattoni in vista. Ti ricordo tutta la ricostruzione, cioè il boom di quel momento, no? Tutti i cantieri aperti, noi ci buttavamo sulla pozzovana da 3-4 metri, boom, da bambini, pensa un po'. È strano però pensare che ci si possa tornare adesso in quella situazione. Pensavamo che non si sarebbe mai tornati indietro. Sì, ma poi insomma sono... pensavamo, ma sono corsi e ricorsi che comunque in realtà si sta così. Ma come diceva Umberto Eco, insomma, non siamo mai stati così bene. Questo film riporta alla mente anche alcune commedie fondamentali, alcuni registi fondamentali del passato. Che cosa provi nei confronti di quel cinema e qualcosa hai cercato mai di rubare? Beh, inconsciamente credo che è roba che ci appartiene, non c'è bisogno di rubare. Gassman, Sordi, Mastroianni, Manfredi, Fabrizi, mi viene in mente anche Walter Chiari, che non è stato molto fortunato nel cinema rispetto agli altri, e ci sono praticamente cresciuto con tutti quanti. Io a quel cinema, è il cinema che prediligo, che amo insieme a quello di Sam Peckinpah, perché io ho due anime, quella così, e fortunatamente anche i lavori che faccio rispecchiano un po' nei limiti del possibile in questo paese. Insomma, mi piacciono molto i noir, anche i francesi, sono molto ferrato tra l'altro. Ma molti attori italiani sono stati rapiti dalla Francia. Ma io spero di essere rapito, non tornare mai più, sì. Però no, scherzo, ma Risi, Dio mio. Roba grossa, roba forte, roba enorme, che non morirà mai. Vai via Peppe che qui si lavora. Cioè, ma vabbè, ma un'altra categoria, altre storie. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Warner Music, Milano. A Sanremo, premio della critica giovani per Il postino, storia d'amore al maschile. Ora esce con l'album Poppins, l'istrionico Renzo Rubino. Non te ne rendi conto, io mica mi sono accorto che sono stato a Sanremo. Non me ne sono accorto per niente. È successo e basta. E sembrava di essere, ecco, in una lavastoviglie con il programma che durava una settimana. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Non ci ho capito niente, però l'immagine più forte che mi è rimasta nella testa è proprio mentre cantavo il ritornello del mio pezzo sul palcoscenico. Amami uomo con le mani da uomo e tu mi fiero con un soffio leggero. Bello. A Sanremo sei tornato con un premio pesante. La mattina della conferenza dei vincitori, dei giovani, avevi un'aria sincera quando ci dicevi che quel premio era davvero importante per te, che era quello che avresti voluto. Perché quello è proprio il premio della soddisfazione. Cioè, se mi avessero detto Renzo scegli il premio come vincitore assoluto, il premio della critica, io avrei scelto quello della critica, il premio che vorrebbero ricevere tutte le persone che scrivono, che raccontano delle storie, è il premio più bello in assoluto. Mi stavo preoccupando, a dire la verità, perché io poi quando mi hanno premiato ho detto ma cioè, non c'è neanche un foglio di carta, una bottiglia di vino, un pupazzetto con su scritto il mio nome, niente. Infatti guardavo, ma ho detto ma vabbè, nah. Poi per fortuna mi hanno detto dopo che c'era la conferenza stampa, la premiazione, e insomma ma giusto per una questione di ricordo affettivo. No, però sono molto soddisfatto, sono veramente felice. E niente è andato come previsto in questo Sanremo. Tutti ci aspettavamo ci sarebbe stata qualche polemica, ad esempio sul testo della tua canzone, invece nulla, proprio è andato tutto via liscio, ti sei stupito? Beh, c'è stata un'attenzione particolare sulla mia canzone, qualcuno ne ha parlato in maniera un po' scorbutica prima che in qualche modo la ascoltasse, Ma in realtà doveva andare così, nel senso che, ripeto, la mia canzone non dice niente, cioè racconta semplicemente di una faccenda d'amore tra due uomini, non giudica nessuno, è una storia d'amore, punto. Cioè, alla fine è inutile trovare, non si trova il pelo nell'uovo, lì non c'è, ecco. Su quell'altalena blu Quanto amore c'è in Poppins? Ce n'è tanto. Ma sì, l'amore è la nostalgia, c'è tanta nostalgia, l'amore per i bei ricordi, per le cose belle, ma io sono ancora convinto che l'amore possa muovere delle cose, e quindi Poppins racconta l'amore in diverse forme. Per fortuna mi piace giocare con le canzoni e con l'ironia, anche perché secondo me i messaggi arrivano prima. Il postino era un pezzo di un'ironia pazzesca, e c'è tanto Iannacci lì dentro, apparecchiami, è Silvano di Iannacci. Ma che cazzo è sto pop? Nessuno dorme una canzone pop, la dolce vita una canzone pop, la gioconda una canzone pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Tutti i luoghi e tutti i laghi sei appartenuta a me, la mia anima, le tue stelle, le tre parole sole, cuore, amore, ho cercato te. Per andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare. Parlami d'amore, quando stanotte tramonta il sole, sarai la forza mia, bella stronza pop. Nessun dorme è una canzone pop, la dolce vita è una canzone pop, la gioconda è una canzone pop. Quindi io sono una tifosa del pop, anche tu. Ma certo, anche Jeff Buckley è pop, Tom Waits è pop, il pop è, ma quello che voglio dire, cioè la bellezza dovrebbe essere popolare, no? Ma poi effettivamente popolare è tutto quello che ci circonda, però per quanto mi riguarda, secondo me la Gioconda è proprio pop, perché è proprio bella ed è popolare, è un grandissimo esempio di pop la Gioconda. Ma questo è il tempo del rock, e tutti corrono a far rock, come se per graffiare bastasse avere lunghe le unghie. E questo è il tempo del rock, anch'io vorrei far rock, per poter gridare che è meglio morire che stare qua giù. Ma non è vero, poi che ti amo, io non ti sposerò. Per il pop, però questo è il tempo del rock. Questo è il tempo del rock, perché chi l'ha detto che per essere rock and roll bisogna spaccare le chitarre oppure ritirarsi alle 8 del mattino? Ormai il rock and roll, cioè fare la pennichella è rock. Io il sabato sera non riuscivo ad andare in discoteca perché da ragazzino dovevo vedere Hercules. Cioè, quello è rock and roll. e mi piaceva raccontare questo aneddoto, che ha raccontato benissimo in questo caso Andrea Rodini, perché poi la canzone è quasi tutta sua, Il tempo del rock, dove a un certo punto dice: come se per graffiare bastasse avere lunghe le unghie. E questo è esattamente il significato. La vita era un gran bignè. Buongiorno caro, diceva a me, mordi qui a sorgerà questa grassa vita, va, mordi qui e saprai se c'è gusto alla realtà. la tua valigia di Mary Poppins, anche perché insomma chi non l'avesse visto, siamo in radio, non si può mostrare, la copertina dell'album è molto esemplificativa. Nella tua valigia di Mary Poppins ci sono tante cose, però, perché tu sei autore, sei cantante, però hai anche una verve spettacolare da attore. Sogni di mettere in luce tutte le tue capacità? Sì, nel senso che la comunicazione è una cosa davvero, come dire, incredibile. Il fatto di poter raccontare delle storie, non è necessario che sia la musica, ma poi io amo il teatro, ho fatto teatro per un bel po', soltanto che facevo davvero, davvero fatica a emergere facendo l'attore, quindi ho cercato di incastrare tutte e due le cose, la musica e il teatro, ma non mi dispiacerebbe per niente, come non mi dispiacerebbe scrivere delle canzoni per il cinema, come non mi dispiacerebbe raccontarmi appunto, come ho detto prima, su un palcoscenico. Quindi ho perso il filo del discorso, ma in realtà è bello, come dire, è soddisfacente poter raccontare delle storie. Noi siamo dei megafoni, cioè io mi sento un megafono, ecco, non faccio altro che amplificare delle cose che mi succedono tutti i giorni, e devo dire la verità, mi diverte proprio. È tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.